versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, caro ascoltatore del 24, questo lunedì 20 di ottobre, 16:37, 50 secondi, quindi vado direttamente al punto di giornata senza neanche ringraziarvi, diamolo per scontato, grazie a tutti. Comunque, vi chiedo un'opinione, telefonate quindi se lo ritenete, potete, volete, all'800 24 00 24, oppure mandate gli sms 349 238 6666 per dire come la pensate su questo punto, su cui c'è una vampante polemica della mancanza di una legge per le unioni civili per omosessuali e non solo per omosessuali, anche per eterosessuali nella legislazione italiana, a fronte del fatto che alcuni sindaci, il sindaco di Roma, il sindaco di Milano, pur sapendo benissimo ovviamente che non abbiamo una legge perché il Parlamento da anni rinvia la legiferazione su questo punto, hanno deciso di trascrivere matrimoni omosessuali celebrati secondo le leggi civili di paesi che lo consentono. Reazione del ministro dell'interno: non dovevate farlo, come ufficiale di governo voi sapete che state violando la legge perché mettete in atto dei comportamenti che non hanno alcuna rilevanza giuridica, e io dai prefetti li faccio cancellare. Allora, nel frattempo avviene il sinodo dei vescovi, in cui su questi temi si dibatte apertamente, si vota, ci sono dei no, dei sì, polemiche. Una chiesa però che con questo Papa intraprende una discussione aperta sotto gli occhi di tutti. A me fa sorridere che nel frattempo ci siano dei partiti che caccino i dissenzienti. Pensateci, se avete votato per partiti che vogliono cambiare l'Italia vi trovate l'Inquisizione, mentre i papi oramai accettano i voti dissenzienti e anzi commentano considerandoli una ricchezza. Ecco, c'è molto da riflettere su questo. Detto questo, come pensarla su questa contraddizione dei sindaci che trascrivono per spingere politicamente dal basso il Parlamento ovviamente a farlo, e il ministro dell'interno che dice state violando la legge? Non lo so, io vi richiamo solo due cose brevissime e poi andiamo a un ospite che ovviamente, essendo un esperto di diritto costituzionale, ci dice come la pensa. Allora, la Corte Costituzionale in realtà negli ultimi 4 anni, due volte, con la sentenza 138 del 2010 e la 170 del 2014, che cosa ha detto? Beh, ha detto che il riconoscimento alle coppie civili omosessuali di un'unione che abbia conseguenze giuridiche è un diritto che rientra senza dubbio all'interno dell'alveo dell'articolo 2 della Costituzione, che è quello che impegna la Repubblica a riconoscere e garantire i diritti inviolabili. Leggo le parole testuali di una di queste due sentenze. Nella nozione di formazione sociale, nel quadro della quale l'articolo 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone, nei tempi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Quindi la Corte cosa dice? Rinvia alla libertà, ovviamente, e alla decisione che deve essere scelta dal Parlamento, ma quanto a i diritti più o meno estesi che devono discendere dal riconoscimento però civile dell'unione di fatto per omosessuali. Questo è quello che dice la Corte, lo dice da anni, la politica rinvia. Secondo me, e qui mi fermo, i sindaci come ovvio sanno perfettamente di violare la legge, ma spingono dal basso. Io sono a favore da sempre dei cambiamenti dal basso, la considero un atto di disobbedienza civile. Capisco che ci sia dall'altra parte che dice no, ma state violando una legge. Però poi la politica si fa così, se la legge si dichiara apertamente di violarla perché non la si considera ingiusta, cioè ci si espone alle conseguenze. Però questa è la mia opinione. Il sondaggio pubblicato oggi, un sondaggio Ipsos, dal Corriere della Sera, riflettete anche su quello, ci fa vedere italiani che, dice l'Ipsos, non sono più in maggioranza, cioè non sono più del 50% favorevoli a una definizione di famiglia, né composta da solo marito e moglie, perché sono solo il 28% a definirla così, né composta da un uomo e una donna, anche se non sposati, perché sommando comunque queste due cose si arriva al 46%, cioè la maggioranza degli italiani sono dell'idea che famiglia sia una qualunque coppia legata da affetto e che voglia vivere insieme, a cui riconoscere quindi dei diritti. Mi ha molto colpito perché l'interpretazione, diciamo, classica dell'articolo 23 della Costituzione, quello della famiglia, di diritto naturale, un uomo e una donna che contrae un vincolo da cui poi quindi il riconoscimento dei diritti, a oggi non è più considerata tale dalla maggioranza degli italiani. Io non dico che i sondaggi debbano far testo e rispetto alle opinioni di ciascuno, vediamo come la pensate voi, ma intanto sentiamo l'opinione del costituzionalista. È con noi il professor Tommaso Edoardo Frosini, che insegna diritto pubblico comparato all'Università Santo Orsola Bene in casa di Napoli. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori. Allora, quelle due sentenze della Corte alla mano, ma alla luce di quello che sta succedendo, qual è la sua opinione sullo scontro sindaci-ministro? Ma per distinte le due cose, perché direi che le sentenze della Corte non incidono rispetto a questo atteggiamento che hanno assunto i sindaci, nel senso la Corte Costituzionale, interrogata come lei ha ricordato nel 2010 e poi nel 2014, ha detto sì che le unioni fra omosessuali sono riconosciute dall'articolo 2, le formazioni sociali, ma che il concetto di famiglia di cui all'articolo 29 e come è stato elaborato dai costituenti prevedeva un'idea di una famiglia di tipo eterosessuale, salvo poi dire la Corte, perché allora chi ricorreva chiedeva che la Corte andasse a introdurre nel codice civile la possibilità del matrimonio omosessuale, salvo che la Corte disse questa è una materia che compete alla discrezionalità del legislatore, quindi faccia il Parlamento, se vuole può approvare una legge e il giorno in cui arriverà da noi per la compatibilità costituzionale noi ci pronunceremo. Ora, i sindaci hanno fatto una cosa diversa però, perché non posso credere che gente come Marino, come Pisapia, che è avvocato, non sappia perfettamente che queste loro trascrizioni non abbiano nessuna efficacia giuridica. E infatti lo fanno per politica, no? Lo fanno per politica, ma non so fino a che punto si possa fare politica e si possa giocare sui diritti delle persone andando, come dire, quasi a voler vendere un prodotto che è invendibile. Cioè, io mi auguro che loro abbiano chiarito alle coppie che si sono sedute davanti a Marino nella sala del Campidoglio che quello che stavano per fare poi non aveva nessun effetto. Non vorrei che qualcuno di loro pensasse che da quel momento sono considerate una portatore coppia di diritti, certo. Esatto, unite al matrimonio. No, questo non comporta nessun obbligo di tipo giuridico da parte delle coppie che sono state, diciamo, trascritte. Il ministro Alfano ha detto che il Marino ha messo un autografo, è una battuta, ma è una battuta vera, nel senso che quella sua firma non ha nessuna efficacia giuridica. Lei dice, beh, è possibile però che questo sia uno stimolo, un pungolo al legislatore. No, credo che sia per questo che lo fanno, altrimenti non si spiegherebbe. Sì, ho capito, ma non lo so se spetta ai sindaci con questa azione di disobbedienza o addirittura di illegalità provocare il Parlamento. Il Parlamento, ci sono i nostri rappresentanti, mi auguro che, come ha detto il primo ministro Renzi, prenderanno a cuore la faccenda e dall'anno prossimo, mi pare in una sua recente dichiarazione, porterà all'ordine del giorno dell'agenda parlamentare questo problema dell'Unione, peraltro ispirandosi, mi pare di aver capito, alla legge tedesca, che è una legge ben fatta, che non prevede il matrimonio, no, senso, ma la convivenza, esatto. Ma la convivenza, perché sono due cose diverse. E che, allora, tanto per dire un'altra cosa, perché molti sms stanno arrivando sul punto, sì. Non prevede neanche l'adozione, ma prevede il riconoscimento di quei, esatto, figli dei membri già della coppia che già, perfetto, hanno avuto figli naturali o adottivi, esatto, del partner, esatto. Non prevede la possibilità. Noi abbiamo assistito a una scena, francamente me lo lasci dire, da set cinematografico, con le truppe televisive, Marino con la fascia tricolore, queste coppie con i bambini che andavano lì, tutti sorridenti come se fosse una grande festa. Era una grande presa in giro, perché appunto non ha nessun valore quell'atto che Marino andava a sottoscrivere nel registro dell'anagrafe civile del Comune di Roma e idem, dicasi, per il Comune di Milano. Quindi l'ho trovata francamente un'esasperazione. E quindi lei dice, in realtà il ministro è tenuto a dire, a fare quello che dice. Assolutamente, perché la legge non lo prevede, il codice civile non prevede l'unione matrimoniale fra coppie dello stesso sesso, e quindi è inutile. Fin tanto che non c'è la legge che lo consenta, qualunque atto amministrativo, sia pure fatto da sindaci di non ha nessun valore. Perfetto, allora adesso abbiamo 60 secondi sulle strade e poi invece una sua opinione anche sul complesso dei diritti, diciamo così, patrimoniali, quindi relativi ai rapporti anche di diritto privato tra i membri di eventuali unioni civili riconosciute in legge, e poi quelli invece anche pubblici, cioè i diritti come graduati rispetto alla famiglia, da attribuire a unioni civili non equiparate quindi alla famiglia, ma in relazione a titoli di diritti pubblici, che ne so, posti in graduatoria per i bambini naturali già avuti dalla coppia, per l'assegnazione di edilizia popolare agevolata e così via. Su questi due punti le chiediamo un'opinione. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta per tentare di darvi qualche elemento, legge e Costituzione, sentenze della Corte alla mano su quello che sta avvenendo. È uno scontro politico tra i sindaci che trascrivono i sindaci e le nozze omosessuali avvenute all'estero nei paesi che lo consentono, e il ministro che dice no, la legge non lo prevede, e anche la Corte Costituzionale, pur riconoscendo che l'unione civile fa parte integrante di quello che dice l'articolo 2 della Costituzione, e il Parlamento che deve decidere come graduarla, come introdurla nel nostro ordinamento. Allora, cominciamo con l'opinione di alcuni di voi che hanno telefonato. Sentiamo Renzo, che ci chiama da Genova. Prego Renzo. Pronto? Pronto, ci dica. Le dico che i matrimoni mi sembrano una cosa abbastanza così utopistica, sì. Utopia pura, perché finché ci sarà il Papa che comanda in Italia non se ne fa niente. Basterebbero le unioni civili con tutti i diritti civili, tutto sì. Questo sarebbe la cosa più bella e più possibile fare, per il resto è molto molto difficile. Grazie Renzo, sentiamo l'opinione di Mario da Roma. Sì, buonasera. Io non vorrei entrare nel merito giusto, non è giusto il matrimonio, unione civile, eccetera, perché credo che la cosa avrebbe bisogno di un dibattito molto approfondito. Ha ragione. Soprattutto di una conoscenza altrettanto approfondita di chi emette pareri, sentenze, eccetera, eccetera, al di là delle ideologie. A me quello che interessa sottolineare è che i sindaci, compiendo questa azione, hanno contravvenuto durante un loro ufficio alla legge italiana. Sì, sì, perché allora, quello è un ufficio che loro compiono in qualità di ufficiale di governo, ha ragione, formalmente è esattamente quello che dice. Questo esempio viene seguito da cittadini che non condividono una legge, tutti quanti si mettono, ma vede, la cosa ancora più grave è che finché lo fa il radicale di turno che fa la disobbedienza civile assumendosi le sue responsabilità, la cosa può stare neanche bene, perché certe volte attraverso una civile protesta si scuote sì. L'opinione pubblica. Però non deve ricoprire ruoli istituzionali, lei dice. Ma quando lo fa un pubblico ufficiale, no, la cosa è molto diversa. Chiarissimo. Allora, quando in questo si dice, noi se in altro paese sarebbe successo questo, io le domando, ma in altri paesi sarebbe successo una cosa del genere? E se fosse successo, che cosa sarebbe accaduto? Perfetto, grazie Mario. Sentiamo ancora Catello da Napoli. Pronto? Dica. Buongiorno, buonasera. Senta, io sono d'accordo con quello che diceva adesso l'ascoltatore precedente, sì. Ma non solo, però non è tanto il discorso del sindaco pubblico ufficiale, perché il sindaco comunque è un individuo comunque politicizzatissimo. Bravo. Quindi ha delle ingerenze enormi la politica su quella persona, con quel pubblico ufficiale. Io direi ancora di più, tutte le amministrazioni pubbliche dovrebbero essere controllate così come ha fatto il ministro Alfano, così lo dovrebbe fare per tutte le amministrazioni pubbliche. Quell'intervento fatto sul sindaco non non potrebbe essere utile se fosse un simbolo che poi si ripercuote a cascata. Ah, ecco, Catello, su questo sono molto d'accordo con lei. Se pensiamo che circa 2000, per esempio, comuni in Italia contravvengono alla legge che li obbliga da anni in teoria a comunicare i dati delle loro partecipate, quante sono, quali sono i dati contabili e patrimoniali, e non le comunicano al Ministero dell'Economia, semplicemente perché non c'è una sanzione, Catello, se questa stessa durezza fosse esercitata su tutti gli ambiti della vita pubblica degli enti locali a livello centrale, per il rispetto della legge, non per questioni politiche, io la penso come lei, sarebbe un passo avanti. Invece qui abbiamo l'immediatezza, su altro non altrettanta tempestività. Allora, professor Frosini, lei che dice? Quanto al far discendere rapporti di diritto privato sui rapporti patrimoniali di membri, per me eterosessuali o omosessuali, io non ne faccio una questione di omosessuali e eterosessuali, no, che si impegnino di fronte alla legge, a un'unione civile, e quanto invece la titolarità di diritti pubblici di tipo economico, secondo lei a che modello bisognerebbe guardare? Beh, dunque, se noi rivolgiamo lo sguardo, come sembra appunto dalle dichiarazioni del primo ministro Renzi, all'esperienza tedesca, allora questa effettivamente riconosce sia i diritti patrimoniali sia i diritti, diciamo, un tempo chiamati soggettivi, sì, pubblici, a favore delle coppie omosessuali. Cioè le unioni civili, come sono state regolate in Germania, riguardano soltanto le coppie omosessuali, sì, a differenza per esempio della Francia, dove c'è i Pax, che riguardano sia gli omosessuali che coloro, le coppie eterosessuali che non vogliono contrarre matrimonio, cioè godono di una stessa tutela. La Germania invece si è concentrata sulle unioni civili solo per le coppie omosessuali e ha previsto tutta una serie di, diciamo, garanzie a favore della coppia, che appunto partono dal riconoscimento dal punto di vista contributivo ed assistenziale. E a quel punto, secondo le sentenze della Corte, la Corte non avrebbe niente da ridire? Non avrebbe niente da ridire, perché il punto è questo, cioè se tu riconosci l'unione civile, che è una cosa diversa, certo, non solo terminologicamente e concettualmente dal matrimonio, certo, allora va benissimo, a cascata ci debbono essere diritti. Se tu riconosci unioni civili senza diritti non ha senso. Chiarissimo, però diritti rispetto al matrimonio graduati di titolo leggermente inferiore a quel punto. Di titolo leggermente inferiore, ma non inesistenti come oggi. Speriamo, vediamo.